Allora, come cantano i Razza a Parte, noi ci siamo ancora, non abbiamo paura, era una canzone sull'antifascismo, parliamo anche un po' di antifascismo, tra l'altro a proposito di Razza a Parte, reduci dall'Antifa Fest al CSA Dordoni di Cremona, dove ricorderete tutti, insomma, c'è stato un vilissimo attacco da parte di Casa Pound, proprio di Casa Pound andiamo a parlare perché... Ebbene sì, il 15 ottobre prossimo venturo avremo una bella spedizione di nazisti sul litorale romano, più precisamente a Ostia, per farvi capire anche un po' l'aria che tira, per aprire un po' la campagna elettorale, quella che dovrebbe essere un'eventuale campagna elettorale sul territorio di Ostia, di quello che è il decimo municipio, che quindi comprende Ostia e parte dell'entroterra, Cilia, Casal Palocco, Infernetto, insomma zone anche densamente abitate. Ebbene, i fascisti pensano bene di aprire la loro campagna elettorale su quel territorio, facendo un grandissimo evento in questo caso, perché sono chiamati camerati piuttosto importanti. Nella sede di Casa Pound Ostia si troveranno a parlare il consigliere comunale di Bolzano, un altro consigliere comunale di Lamezia, che sono un po' le punte di diamante di Casa Pound per quanto riguarda le loro amministrazioni, dove riescono a eleggere qualche loro sgherro. Ovviamente ci saranno a coordinare i camerati di Ostia, ma soprattutto ci sarà anche un esponente di Alba Dorata e anche Andrea Antonini, insomma altro camerata piuttosto noto anche per le sue torbide vicende, tra l'altro vicepresidente di Casa Pound Italia. Ora, è ovvio che sull'antifascismo si potrebbero fare riflessioni amplissime, insomma ci sarebbe tanto da parlare, però ecco, questo è sicuramente un momento in cui i fascisti, questi topi fascisti, cercano di uscire dalle loro tane, lo fanno a Ostia, ma potrebbero farlo ovunque. Tra l'altro ricordiamo che Roma in questo caso è sotto botta, perché insomma le sedi di Casa Pound aumentano, purtroppo questo è un dato che dobbiamo rilevare. Se ne è aperta una ultimamente alla Magliana, diciamo quartiere storicamente popolare, anche insomma con le sue venature antifasciste, però sono riuscite a incunearsi anche lì, seppur con una sede molto piccola, Roma Nord ultimamente, ma quelle poi storicamente nella geografia urbana e sociale e politica della nostra città sappiamo che è sempre stata un po' nera. Ostia ormai si conferma un po' come centro propulsivo della città per Casa Pound, insomma diventano sempre di più le loro sedi e ci dobbiamo sempre trovare a contrastarli nelle nostre strade. Poi tra l'altro, dalla cronaca, sempre in tema di antifascismo, vi segnaliamo anche tre indagati ultra del Bari che erano stati sorpresi a fare saluti romani durante la partita di calcio Israele-Italia e la Digos, la polizia, ha trovato nelle loro case manganelli, caschi, riviste fasciste, insomma tutto l'armamentario del buon camerata. E questi signori di Casa Pound poi hanno dei legami anche internazionali. È successo un po' di tempo fa, a settembre in Finlandia, dove questi personaggi hanno fatto una sorta di iniziativa parata, c'erano il Partito Nazionalsocialista Finnico e c'era anche Casa Pound, e un giovane antirazzista finlandese è stato ammazzato da questi loschi figuri. È avvenuto il 10 settembre ad Helsinki, è stato massacrato questo ragazzo, si chiama Jimmy Johannes Kartunen, che è morto dopo una settimana per emorragia cerebrale. La polizia poi ha arrestato un giovane fascista di 26 anni, fortemente indiziato. Questa iniziativa di questi fascisti finlandesi era un'iniziativa in cui partecipava a pieno titolo anche Casa Pound.